io sto andando, perché non mi risponde, perché non mi dice 12 o 24, non si fa commenti, non si può far vedere un video. 44 ampere, è un carica batteria inserito, questa è la missione che sto dando io. Poi a parte, all'interno della mia casa, c'ho un baracchino semplice con un alimentatore a 3-5 ampere. E ripeto la domanda, rispondimi solamente, poi parli ancora, rispondimi solamente a quello che ti chiedo e poi andiamo avanti. Il lineare che stai usando, quanti volt funziona? 12 o 24? Rispondimi solo a quello, non fare altri commenti. 12. Ecco, 12 volt, sentito lui, 12 volt. Adesso dimmi, le batterie che tu hai, a quanti volt sono? In serie o in parallelo? Come le hai messe? Ne ho una solo da 12 volt. Perché a 12 volt? Oh, mi vuoi assare a rispondimi. Lo stai alimentando tramite il caricabatterie, va bene? Affermativo, questo è l'impianto mio, tutto a 12 volt. Invece l'impianto che c'ha Luigi nel camion a 24 e noi stiamo parlando dell'impianto di Luigi, non del mio. Ho capito, io ho capito, ma tu hai fatto una confusione del diavolo poco fa. Allora ti spiego una cosa, innanzitutto, come lo stai usando tu, come lo stai alimentando tu, il lineare, si chiama alimentazione a tampone, scrivitilo se non te lo ricordi. Perché? Perché quello che prelevi rientra tramite il caricabatterie e si chiama alimentazione a tampone. Poi c'è un particolare da dire. Così c'è un ripple sicuramente, perché il caricabatterie non è stabilizzato, dunque c'è per forza una leggera alternata che io sento se tu metti il lineare, capito? Negativo, perché il caricabatterie lo piglia direttamente la batteria e alternata non ne ho. Non è come stai dicendo tu, non è così che si fa, deve essere stabilizzato anche il caricabatterie, perché se no l'alternata c'è sempre, cosa no? Si intendo io in cuffia, cosa no? Però alternata non ce ne ho, lui, io alternata non ce l'ho perché mi sono sentito in cuffia e ho chiesto controlli e nessuno mi ha detto che sono alternata. E anche questo controllo, perché la gente non capisce se è l'alternata o se è il rumore in fondo, vabbè, comunque dai, chiudiamo il discorso, perché intanto sembra che stiamo bisticciando, invece non stiamo solo chiacchierando e basta. Comunque vabbè, ho preinteso io, va bene? D'accordo, ripeto lui. Positivo, lo so, per fare cose così non è facile, perché già do problemi così a apparato solo, figuriamoci se gli attacco una... Lui diceva per uscire più forte, no, non mi interessa uscire più forte, Alghero ci arrivo da casa e anzi cerco di abbassare il massimo dei watt io qui per parlare, per modulare, per non dare fastidio e non posso mettere nulla, dai, non posso attaccare nulla qua, io non attacco proprio un bel niente. Va bene così e lascio tutto com'è. Lo so, il funzionamento, no, sta dicendo bene anche Pinangelo fare quel lavoro lì, ma non mi serve. Non mi serve che ho altri apparati, se li attacco vanno più di questo, se fanno sentire bene, non ne ho bisogno, dai, di fare tutte queste cose, non ne ho bisogno e lascio tutto com'è io. È un'assurdità fare certe cose, è un'assurdità, perché uno si prende l'alimentatore adeguato al tipo di carico che deve assorbire, ed è la cosa migliore, perché quando è stabilizzato non è detto perché tu hai più amperaggio che esci più forte, no, potrebbe avvenire dicendo al contrario, però rischi, cioè se ci fosse qualche volto in più nell'alimentazione potresti anche guadagnare un cc, non molto, un cc, però rischi alla grande, perché potresti bruciare l'apparecchiatura. Non è come sta dicendo Pilangio, nella maniera più assoluta, quando c'è più amperaggio non è che esci più forte, esci sempre alla stessa maniera, perché l'utilizzatore ripeto, l'utilizzatore, che sarebbe il lineare o il baracchino o tutto il carico che c'è in quella batteria o in quell'alimentatore, è sempre quello, dunque non esce più fuori. Anzi, ti dirò di più, man mano che passano le ore, i minuti o i giorni, la batteria scende di potenza, di amperaggio, e dunque risulti anche di meno, vai anche di meno, mentre invece l'alimentatore è sempre costante, sia l'amperaggio che la tensione, perciò non è vero quello che sta dicendo Pinangelo. Adesso io ripeto, non voglio contraddire, anche perché Pinangelo è un uomo grande e me ne guarderei bene di contraddire nessuno, non è nel mio stile, però quello che ti sto dicendo è che tranquillo che tu lo presenti, perché ne so, perché sono competente, capito lui? Giulio, però è giusto anche quello che dice Pinangelo, perché è così. Allora, un alimentatore, per fare andare un lineare di quella portata lì, deve essere abbastanza grosso, deve essere, ma grosso veramente. Allora, e non ha mai l'amperaggio che gli dà la batteria. Per funzionare quelli che opero io in camion, per funzionare bene, ha bisogno di quelle batterie, di quell'amperaggio lì. Se vai in sotto di quell'amperaggio lì, esce male, deve uscire male la radio, non ce la fa, esce tutto saturo, tutto non fa, non ce la fa a uscire. Ha bisogno di quella corrente. Per fare funzionare quel lineare che ho io, o che sia 12 volte o sia 24, facciamolo che sia 12 volte, ha bisogno di una batteria, dice giusto, perché se tu l'attacchi all'alimentatore, io ho provato ad attaccarlo a questo di 25 ampere qua, ho attaccato uno piccolino, e non ce la fa a farlo andare, cioè, ed è quello che ho io da 25 ampere, non ce la fa. Invece gli attacco una batteria anche mezzo scarica e lo fa andare, lo fa uscire bene, perché la batteria, alla ragione che diceva lui, gli manda, c'ha più carica di cosa, c'ha più amperaggio, hai capito? Ecco, e lo fa andare, ecco, ha bisogno di tutta quell'amperaggio lì, quelli lineari lì, quelli di camion, non quelli lineari da casa, quelli di camion. Sono 24 volte, buonasera. Ciao Gianni, ascolta, se tu fai confusione come lui è un discorso, se no no, lui, è chiaro che se tu mi usi un lineare da 100 watt hai bisogno di un basso amperaggio, se ne usi uno da 500 watt è ovvio che devi avere un amperaggio superiore. Tu mi dici, l'alimentatore che ho io non ce la fa da 25, ma è normale che non ce la fa, questo lo sappiamo benissimo, perché? Perché per 500 watt ne dovrai usare uno a 30, 35, 40, non lo so quanto vuole, capito? Poi parlando di batteria, come stai dicendo tu, chiaramente ce la fa, però la batteria poi se ne scende, non c'è niente da fare, hai capito? La cosa migliore è l'alimentatore, lascia perdere la batteria va bene alla macchina, no? Non alimentare le nostre apparecchiature. Ciao Gianni. Ciao Gianni, scusa un attimo, hai ragione Giulio, ma io stavo dicendo quello che stava dicendo prima Pinangelo, siamo capiti più o meno, noi ci siamo, quello che stava dicendo anche Pinangelo prima, che quel lineare che ho io in camion, allora riusciva a far uscire bene un apparato da casa, però collegando con le batterie, è giusto, perché se no, per quello che ho io in camion, ci vuole un alimentatore enorme, a 220 per farlo funzionare, capito? E allora lui dice, lui sta operando questo lineare a 12 volte con la batteria, con carica batteria, e lo pilota bene. Se tu quel lineare che c'ha lui a 12 volte l'attacca a un alimentatore da 25, da quanto c'era, o da 30 pure da 35, poi anche non ce la faccia a farla andare. E con la batteria ci riesce, però la ragione è tua, se la batteria si scarica la batteria, perde potenza la batteria, non va lo stesso. Capito? Tutto qua, dai, chiudiamo questo discorso che non finiamo più per stasera. Aspetta, adesso voglio fare anche un altro discorso, perché c'è da chiarire anche un'altra piccola cosa. Allora, lui sta usando, supponiamo, questa adesso è una supposizione, no? Un lineare da 200 watt, ammettiamo, va bene? Un lineare che ti assorbe, che so io, 10 ampere, va bene? Se lui mi alimenta la batteria con 2 ampere e mezzo e modula per un'ora, di continuo, senza mai fermarsi, stai tranquillo che anziché caricare la batteria la scarica, sicché sta facendo un'operazione di alimentazione totalmente sballata, capito lui? Vabbè, comunque, finito il discorso, se no polemizziamo troppo, dai, facciamo girare per Gianni, se non si stanca se ne vai. Vai Gianni! Io a 6-9, sono suonato qua, non ho seguito il discorso, capito, parlando di corpi correnti, di batterie, ma non ho capito il discorso, ho capito che la batteria è meglio dell'alimentatore, tu? Lui dice Piangelo, perché lui dice che, dice che usa l'alimentatore lineare, lo usa a tampone con un carico a batterie e una batteria, no, un carico a batterie da 2 ampere e mezzo. Ora io vorrei capire qual è l'alimentatore lineare, ripeto, e voglio sottolineare, l'alimentatore lineare, anche da 30 watt, che è il minimo in pratica che si trova in commercio, o almeno penso, non so se c'è qualcuno ancora in nero, assorbe sempre più di 2 ampere e mezzo. Perciò non capisco come lui pretenda di alimentare una batteria a tampone ricaricandola contemporaneamente alla trasmissione che fa con 2 ampere e mezzo, perché lui ha detto che alimenta con 2 ampere e mezzo. È assurdo, perché se quello mangia più di 2 ampere e mezzo, la batteria, man mano che va avanti, se dovesse modulare di continuo, tu mi insegni che la scarichi, perché la scarichi, perché quello che esce non rientra, capito Gian? Allora, una batteria può avere 500-600 ampere di spunto e 72 ampere ora. Quindi significa che tu hai 72 ampere a disposizione in un'ora. Ok? Giusto per no, se no tu ti fa un macello scarpino. Oh, quanti ampere sta tirando quando fa in trasmissione? Ho capito che mi pare che avrete fa 50 watt, giusto? Non lo so quante watt lui usa, ma io ho fatto questo ragionamento. Supponiamo che ci sia un alimentatore da 200 watt, tanto per fare un esempio. E questi 200 watt ti assorbe, che so io, 10 ampere. Se tu me la ricarichi di continuo con 2 ampere e mezzo, naturalmente quando ti fermi ricarica, ma se tu mi fai un'ora di continua e me ne togli 10 ampere e quell'altro invece me ne dà 2 e mezzo, che di rientro non è possibile, la batteria scarichi per forza. Oh, aspetta, mamma mia, ma quindi due portando il sentito. Allora, ritorniamo allo stesso discorso che ho iniziato poco fa. Una batteria che ha 72 ampere ora, non è che c'è scritto 72 AH, giusto perché c'è scritto, perché in un'ora può erogare 72 ampere, va bene? Ok? Se quello strumento che sto usando assorbe 10 ampere ora, significa che in un'ora assorbe 10 ampere, quindi quella batteria alimenterà quello strumento per 7 ore, perché sono 70 ampere circa. Ricaricandolo con un caricabatteria da 2 ampere significa che in un'ora gli fornisce 2 ampere, va bene? Quindi, considerando perdita e ingresso dell'alimentatore, praticamente lui può andare avanti per circa una decina di ore, e non sono poche. Questo sì, questo è un altro discorso, però io sto parlando di perdita della batteria. La batteria in quell'ora lì, anziché ricaricarsi e rimanere stabile a 70 ampere, se mi dà 70 ampere, me ne starà dando 60 in quel caso lì. Perché? Perché se li sta mangiando 10 ampere, cosa, mentre invece me ne sta dando 2 ampere e mezzo di ricarica, che poi potrebbero essere, alla fine, a realizzare i conti, 8 ampere che sta mangiato l'alimentatore. Lo so che poi puoi continuare per 10 ore, certo, perché funziona così, è normale, però anziché ricaricare, io sto dicendo si scarica. No, aspetta, ho parlato di una capacità di spunto. Una batteria che ha 600 ampere ora di spunto significa che ti può fornire sino a 600 ampere, quindi la corrente nominale di erogazione oraria è quella lì, sono 72 ampere ora. Io l'ho messa così, potrebbe essere anche da 100 ampere ora, e quindi buonanotte, a quel punto dura un giorno intero con la patente premessa. Però in questa circostanza parliamo di 70 ampere ora. Allora, non è che la batteria non ti può fornire i 70 ampere, se vuoi, se gli richiedi, se li fornisce tutti assieme, però la scarichi in un'ora. Se tu gli chiedi 70 ampere, in un'ora a terra, esattamente 55 minuti, perché c'è la tolleranza più o meno 5% o 10%. Quindi tu lo puoi chiedere tutta la potenza quando vuoi. Ora lui gli chiede con corrente di spunto, la batteria esplodisce. Ovviamente, questo è matematico, no? Dove va a influire quella corrente di spunto? Sulla durata in ora, in ampere ora, è inversamente proporzionale. Cioè, mi sembra una cosa abbastanza chiara, ma non capisco dove sia il problema. Il problema non esiste, non sto dicendo che esiste un problema, nella maniera più assoluta, sto semplicemente dicendo che la batteria si scarica e non si ricarica perché non ha un'entrata adeguata all'uscita, tutto lì. Poi il fatto che duri 10 ore perché è una batteria grossa, questo lo sappiamo benissimo, ci mancherebbe altro, se quella assorbe 10 ampere e quello ne ha 70, è chiaro che deve stare 7 ore sempre attaccato, però in realtà se noi prendiamo, allora facciamo questo esempio. Allora, noi abbiamo un assorbimento di 10 ampere, va bene? E abbiamo una batteria da 10 ampere. Ci siamo? A questo punto io la ricarico con 2 ampere di entrata. A un certo momento mi siedo per forza. Ma bisogna conoscere i costanti. Sono valori numerici ben definiti. Se io prendo una batteria da 10 ampere, so che ho 10 ampere ora e quindi so che con quei 10 ampere la carico in un'ora. E fin qui non ci piove. Chiaramente con un alimentatore di 2 ampere ora non riesci più a compensarla perché in un'ora... Cioè, quando io ho ripreso quelle aziende, mi ha capito anche lui. Ma se ho capito bene, sta usando una batteria da 60 ampere ora che quando è carica non gli richiede più di quel tanto. Perché? Perché nella divisione degli elementi una corrente di 2 ampere ora, diciamo così, in tutto quell'arco che lui adopera quell'assorbimento, dopo che ne so che ha lavorato 6-7 ore, lui ha ricaricato sì poco, però comunque la batteria ha sempre quel costante di corrente, non c'è problema giù. Se poi mi dici una batteria è 10 ampere, allora è buonanotte, allora stai usando una batteria da Barbie. Però si parlava di una batteria da automobile, così è. D'accordo, ma io sto parlando non del fatto che dura nel tempo 6 ore, 8 ore, 10 ore, no, io sto parlando quello che succhia l'alimentatore, è quello che rientra tramite il caricabatterie, perciò non è discorso, lo so benissimo, se ha 70 ampere è chiaro che ha 7 ore di autonomia, ma è normale, no, questo è normalissimo, lo sappiamo tutti, lo sanno anche le lumachine, lo sanno, perciò, però... tempo, per forza ce la scarica, perché se noi dovessimo continuare sino all'esaurimento, cioè fino a una settimana, tanto per fare un esempio, dico una settimana, se ci fosse la possibilità di poterlo fare, stai tranquillo che la batteria a un certo momento è scarica, non è più carica, nonostante che c'è carica batterie sempre attaccato, e il discorso è questo già, e non puoi dire di no. Aspetta. Intanto bisogna vedere il tipo di carica batterie, perché oggi ci sono tipi di carica batterie che hanno, cioè apparentemente sono nominali, sono 2 ampere, per una corrente a modulazione di impulsi, no, non lo so che tipo di carica batterie è, premessa, perché solitamente si usa un carica batterie con un ponte raddrizzatore senza livello, appunto poi si collega la batteria e si carica in impulsi. Però oggi con la nuova generazione di carica batterie, specialmente quelli che trovi al libro che ho fatto lì, quando vedi attacco la batteria e sono più efficienti di un carica batterie da 50 ampere. Guarda caso, lavorano con la modulazione di impulsi e la batteria in un'ora le dà una marea di corrente. È incredibile, ma è vero, ci sono anche questi tipi di alimentatori. Questi sono piccoli, non sono dei patettini, proprio piccoli, un po' come i switch mobili, cioè i computer che erano 16 ampere, sono piccolissimi. Non lo so ora cosa sta facendo, però può modulare, cioè la corrente gliela fornisce. Alternative. Giulio, io ho capito quello che vuoi dire tu, praticamente se tu moduli costantemente con questo apparato giorno e notte, arriva un punto che il caricabatterie non riesce a compensare quello che praticamente tu stai consumando, eppure è matematico, chiaramente, perché in un'automobile quello che carica la batteria è l'alternatore ha capacità di corrente di spunto fino a 60 ampere, quindi è pari pari la batteria ampere ora, questo sicuro, però lui se... capisco dove è il problema, ma quello che intendeva di lui era che in pratica gli pilotava bene sia il lineare che tutto quello che gli serviva, siccome dobbiamo mettere in gioco le correnti di spunto della batteria, quindi tutto questo poi va a influire sulla durata. Poi se lui gli chiede 400 ampere, la batteria di colpo, per un attimo, glieli dà, capito? Se poi gliene chiede 20 e 30, glieli dà, se gliene chiede 50, glieli dà, sempre andando a influire sul consumo ampere ora. Oh Gianni, scusate un attimino. Sì, sì, dimmi. Allora io ne ho uno di questi caricabatterie, lo stavo guardando, io c'ho un Bosch, lo stavo guardando adesso, lo stavo guardando, leggendo le caratteristiche, qua mi dice 230 volt, poi da 50 a 60 Hz, 125 watt e 6 ampere, c'è scritto qua. 6 ampere ora. Lo fanno così per fare in modo che la batteria non abbia dei danni agli elementi. Se tu vai a caricare una batteria con la potenza massima, altro non ti vedi che ribollire gli acidi. Quindi ci sono due strade. O le dai una carica costante e la compensi, appunto, o altrimenti ti succede che la batteria si sfascia gli elementi. Quindi, la batteria cosa può reggere come carica di corrente nominale? Allora, 15 ampere ora, 20 ampere ora. Se tu vai pari pari con la corrente nominale, continua, la bruci, questo sicuro è, questo è, guarda, questo è, non si può modificare, questa è una legge degli elementi al piombo, è una legge, non lo puoi fare. Quindi le dai una carica inferiore, infatti l'alternatore dell'automobile nei picchi massimi cosa fa? Contribuisce ad alimentare tutto l'impianto perché lo sta richiedendo, ma quando l'impianto non lo richiede lei si accorge di che cosa ha bisogno la batteria e di conseguenza la ricarica. È un po' come le batterie elettromedicali, che se tu esageri con il livello di corrente entrante, la bruci proprio di netto, capisci? Oh, perché molti caricabatterie hanno solo quelle basse portate? Tutto lì, però normalmente una batteria dovrebbe stare dentro un'automobile che viene compensata dal suo generatore. E allora il discorso è quello che ti dico io, se deve essere compensata dal suo generatore, è chiaro, io sto parlando di rigenerare la batteria, non la durata nel tempo, e sono due cose completamente differenti, Gianni, inutile, che, e poi tu stesso poc'anzi hai detto con la stessa cosa che stavo dicendo io, perciò non si può rigenerare se c'è un assorbimento maggiore alla rigenerazione, nella maniera più assoluta. Solo nel tempo, questo sì, perché? Perché stai usando un carico di gran lunga inferiore alla batteria, quella che ti può dare la batteria, però la rigenerazione non ci può essere, perché se io lascio l'apparato sempre acceso, continuamente, è sempre acceso il carico a batteria con la batteria in funzione, a un certo punto mi ritrovo con la batteria scarica, questa è fuori discussione, non puoi dire no, poi spunto o non spunto non c'entra niente, perché non c'è una rigenerazione di ripresa. Beh, se non è costante, se non è costante la ricarica, la batteria va a scaricarsi, però quello che ho capito io nel concetto del Dinangelo è che lui dice a me me lo pilota, me lo spinge e tutto quello che gli chiedo mi dà, sì, poi lo mette a caricare, spinge tutto quello che ricarica, boh. Questo è il tuo discorso, grazie. Se io faccio un passaggio adesso, un minuto attacchi a consumo che so io ho un miliampere, tanto per fare un esempio, e poi sto 5 minuti senza parlare, io in quei 5 minuti magari quel miliampere l'ho recuperato, ma questo è normale, lo sappiamo, questo lo sanno anche i bambini, no? Ma io non capisco dove sia il problema, non ho capito questo discorso a cosa è legato, cioè allora, praticamente è venuto fuori il fatto che questa batteria hanno un problema, il problema di scaricarsi come tutte le batterie, però non ho capito, l'altro problema dice che non alimenta, non ho capito bene. Allora, il problema era questo, lui asseriva che con una batteria di camion, lasciamo stare la questione del tempo, delle ore o dei giorni, non ce ne frega niente, eh? Esce più forte, cioè alimentando, collegata con la batteria del camion, un alimentatore lineare, una stazione, tanto per fare un esempio, di un camionista, ecco, ad esempio, di un camionista, con 500 watt, o che so io, 300, quello che sarà, non è importanza nemmeno quello, lo fatto della potenza. E più forte dice che dà più potenza di essere alimentato, il tutto con il solito alimentatore che noi abbiamo a casa, un switching, naturalmente con un alimentatore dei watt, è chiaro. Io dico no, non è vero, perché non c'entra niente la potenza di trasmissione con il discorso di alimentazione. Se l'alimentazione è corretta da entrambi le parti, sia direttamente dalla rete o dalla batteria o da dove vuoi o dal gasolio, è sempre quella la potenza di trasmissione, non c'entra proprio niente questo qui. Qui traboccio, qui si è significato un fattore molto importante, che è l'impedenza interna del generatore. Questa è una cosa molto importante, carissimo Giulio, è un fattore che probabilmente non hai mai studiato. Allora, la batteria lo sai che è una sua impedenza interna, quindi l'impedenza del generatore vista sotto il carico cambia entità con il punto in corrente. Purtroppo un alimentatore normale molte volte anche sovradimensionato, a prescindere dal fatto che possa rientrare la biofrequenza o meno, qualche volta incontra seri problemi negli spunti di forti correnti, perché tende a abbassarsi più via della bassa impedenza. Fa questo lavoro qua. Io, siccome l'ho constatato, che molte volte, questa è una cosa che ti posso provare quando vuoi, davanti a te, allora, molte volte, specialmente negli apparecchi di trasmissione che hanno una forte richiesta di corrente così immediata, no? Questi generatori così al piombo, visti sotto l'aspetto di generatori di corrente, perché quello hai a disposizione, hanno delle forti correnti di spunto. Lui cosa ti sta dicendo? Io l'ho capito. Lui ti sta dicendo che automaticamente la tensione si mantiene proporzionale al valore nominale e la corrente si eleva senza che subisca perdite in tensione. Ma è ovvio, un alimentatore da base, per poter superare una batteria, dovrebbe avere due volte la stessa capacità. Due volte per raggiungere quella corrente nominale, altrimenti non solo si siede, ma rischi anche che bruci la sezione dello stabilizzatore dove è calcolata con tutte le perdite di caduta di tensione. Cosa che questo negli elementi al piombo non succede, in virtù della sua impedenza interna. Purtroppo i generatori la vedono così. Io ti ho parlato di un alimentatore adeguato. Ho parlato di un alimentatore adeguato. Se poi un alimentatore comprato a città mercato, allora il discorso è diverso. Allora tu mi devi spiegare per quale motivo i radioamatori non usano le batterie anziché gli alimentatori da 50-60 ampere e anche di più. E tu questo mi devi spiegare. Un attimo, Gianni. Allora, io sto la linea Kenwood con l'alimentatore originale PS430. Ecco, il 430, siccome il 140 è spinto e si chiede un pochino, non molto, però si chiede, ed è l'alimentatore originale, dico originale, metto una batteria a 100 ampere. Ecco, due alimentazioni, uno da 100 ampere con batteria e carica batterie. Ecco, quello va benissimo sul professionale e se va via la corrente, io continuo a parlare e gli altri non mi sentono. Ma quello che vuole dire Giulio, io l'ho capito, Giulio sta dicendo, allora, la differenza tra la batteria e l'alimentatore è questa. C'è una batteria ha più capacità di tenere la tensione della corrente nominale con spunti altissimi in modo molto più stabile. Lui dice, mettendo un alimentatore adeguato, cioè praticamente dovresti mettere un alimentatore, se la batteria viene da 100, dovresti metterlo da 270, 380 non è importanza, lui dice, e poi è rilevante, non è che non è importanza, però comunque è meglio l'alimentatore. Sotto l'aspetto dell'alimentazione è meglio la batteria, ed è scritto nei libri di tutto il mondo, perché come la batteria non ce n'è, perché l'alimentatore presenta piccola notizia, cioè una minima parte di alternanza c'è sempre, perché si può stabilizzare anche con le condizioni di farmacia, è uguale. Quindi, è stato un'altra partizione. Quindi tutti gli andatori sono in un passo hanno una relazione residua non minore a 5 minuti volte RMS, non minore di quella, l'indicatore che sia. Quindi la batteria da preferire poi, che è l'animatore o che una persona che fa utilizzo continuo di una tensione preferita all'alimentatore è per questioni di convenienza, nel senso che non sai a ricaricare, non hai esalazioni di acidi, tutte queste cose io mi cappello, non ti sto dicendo niente, però la batteria è da preferire all'alimentatore sotto tutti gli aspetti, prima per il ripo presente, secondo per gli spunti di corrente e terzo per la tenuta in tensione nominale, cosa che un alimentatore se ha 13 volt tu schiacci, se c'è un forte assorbimento ne scende come minimo un volt. Guarda, oh Gianni, a parte il fatto che un minimissimo di ripple non dà nessunissimo fastidio, sappiamo benissimo che come pulizia la batteria ha senz'altro più pulizia di un alimentatore, questo lo sappiamo benissimo, lo sanno tutti, suppongo che lo sappiano tutti, però non si può paragonare sia per il fastidio, sia per la costante della corrente. La tensione, lo sappiamo che poi se arriva un colpo di corrente è chiaro che salta tutto, non se ne parla più, però devi anche mettere in preventivo che man mano che abbassa l'amperaggio si riduce anche la tensione, e questo è scontato perché io te lo posso provare, non mi dire di no. Perché se io ho una batteria in una macchina che si abbassa di amperaggio, si è abbassato anche di tensione, o meglio, ha di tensione sufficiente per poter mettere in moto la macchina, sicché non mi dire di no, è una cosa normalissima, normale, proprio normalissima, non a caso tutti gli elettrauti, tutti quanti gli elettrauti, la prima cosa che fanno, ti provano la tensione della batteria, vedono che passa e c'è la batteria esaurita e poi la ricaricano e si accorgono che c'è un elemento che è saltato, allora se salta un elemento chiaramente mancano i 2 volt e allora da 12 diventano 10, ecco a questo punto manca anche l'amperaggio, manca, è tutta una serie di conseguenze e poi il ridicolo che uno si possa portare a casa, io noi stiamo parlando di stazione radio, è ridicolo che si possa portare a casa una batteria che pesa 200 kg, caspita, quando con un alimentatore di un paio di chili, 3 kg, 30 kg, anche può essere per se è di 50 ampere ad esempio, risolvi tutti i problemi della stazione di qualsiasi apparecchiatura che ti ritrovi. È assurdo, dai, è da persone poco intelligenti secondo me utilizzare una batteria o più batterie per alimentare una stazione da radioamatore, dai, fa ridere anche esteticamente, non solamente nel senso pratico delle cose, ma anche esteticamente fa ridere, non lo usa nessuno, chi lo usa lo usa così solo per capriccio e basta, o perché magari non vuole spendere soldi a comprarsi un buon alimentatore che costa, ripeto, se uno ha un alimentatore comprato da Upin allora è un discorso, ma se ha un alimentatore comprato come serve non mi parlare di Ripple, perché ci sono degli alimentatori straordinariamente buoni, naturalmente costano, perché costano, questo è ovvio, non è certo una spesa che si deve fare per alimentare un baracchino, no, questo no, non ne vale la pena, però se uno ha veramente una stazione a dovere, come si deve, non guarda certamente se deve spendere 2-3 mila euro per comprare un alimentatore con i fiocchi, capito già? Sì, ma sono perfettamente d'accordo con te, col discorso che l'alimentatore dovrebbe essere quello che all'apice è l'elemento che fornisce energia, quindi di conseguenza tra pulito e tra lineare, su questo non ci piove, dovrebbe essere costante nel fornire corrente e tensione. Comunque il discorso che misuri la batteria a 12-13 volt ed è buona, questo è una cosa che bisogna vedere, perché ho visto batterie 13,8, le mettete i morsetti e se ne scendeva a zero, come le spini, come succedeva, quindi non è sempre vero che mettendogli il tester può essere una tensione residua apparente, però poi non ha capacità in corrente. Io ti faccio vedere batterie che non mantengono carica e sono perfettamente a 13,8, ma suppongo che tu sappia cosa vuol dire la solfatazione, quindi quando è così è partita, anche se, però giustamente, ma nessuno ti sta dicendo che l'alimentatore non serve. Io ti sto dicendo che all'apice un alimentatore, se rientri in radiofrequenza comunque, ha un forte, ha una forte sregolazione sulla tensione. Tu insegni che in pratica se un alimentatore è ben costruito e costa, che ne so, 800 euro, un paravone, ti permette di alimentare tutti gli apparati che vuoi, scansando anche i ritorni della frequenza. Ma questo giù è ovvio, però come fonte di energia pulita e come fonte affidabile è insensibile ai ritorni della frequenza, come la batteria non ce n'è, si già che ti rientra dai muscoli della radio e basta. No, se no guarda, è la migliore in assoluto. Poi non mi posso mettere una batteria a 200 kg come hai detto tu dentro la stazione per alimentare gli apparati, non va bene perché è una cosa scomoda, capito? Ma nulla vieta che venga fatto perché uno è pulista, vuole mettere le batterie. Io conosco dei pazzi audiofili, pazzi intendo dire pazzi esauriti, che usano dei giradischi che pesano 250 kg, che hanno varie convenzioni per poter girare il disco bene, e si sentono e girano un disco e fanno sempre lo stesso lavoro, però poi quello che viene fuori è 100.000 volte superiore. Ecco, io l'avevo intesa sotto quell'aspetto. Poi sotto l'aspetto della costanza in corrente, tensione, nel senso duraturo, perché lì si parla di ore, appunto l'ampere ora entra in gioco, perché è quello che conta, sicuramente l'alimentatore è quello più conveniente, dove come hai detto ci sono degli switching che con spazi ristretti e pesi limitati risolvono il problema all'apice. Se è questo tutto il punto, allora è chiaro, no Giulio? Tutto è quello, stiamo parlando noi di stazione radio, non stiamo parlando di altre cose. Poi un'altra cosa, è continuo ad insistere, la batteria se scende di amperaggio scende anche di voltaggio, perché se tu la misuri in assorbimento, cioè sotto carica, se metti un'apparecchiatura che assorbe, stessa cosa che anche il voltaggio ti renderai conto che sia abbassato. Certo, se tu la misuri senza nessun assorbimento, magari ti dà sempre 13,8 o 13 o 12 o quello che sarà, però se la misuri poi con un carico, stai tranquillo che si è abbassato anche il voltaggio. Me lo dirà meglio le cose, che io le ho fatte 50 anni fa le cose, non oggi. Ehi, via. Vabbè, comunque, siamo arrivati alla conclusione che ci siamo capiti, va? No, ma devi essere specifico, è una questione apparente, è relativa, carico o senza carico, io volevo appunto sapere, no? Effettivamente cosa volete dire? Che poi queste sono cose spicciole che io sono menavito da quando ero nella culla, ma questo non ha importanza, queste sono cose spicciole. Naturalmente per costruire un buon alimentatore sicuramente non parti col criterio che uno conosce il tester o che conosce il ripple eccetera eccetera, ci vogliono altri criteri per fare un buon alimentatore. Poi se switching, allora bisogna conoscere tutta altra tecnica e via. Ma non ha importanza, c'è qualcuno che sta chiamando, avanti. No, c'è la gente, finisce lo stomaco. Guarda, c'è una cosa, anche tu hai fatto un piccolo errore, in quanto io ho fatto questo sistema, batterie e alimentatore, no? Batterie lineare, alimentatore baracchino, in quanto per non avere così mesi e altre cose varie. IPS 430 della Kenwood, che avevo pagato allora 600.000 lire tempo indietro, mi fornisce due alimentazioni, una da 20 ampere e l'altra da 10 ampere. Ecco, li posso sfruttare contemporaneamente il baracchino alimentandolo a 10 ampere e il coso in lineare lo alimento a 20 ampere. Grosso modo, no, tutte e due, il baracchino assorbe 2 ampere, l'alimentatore 100 watt assorbe 7 ampere, ecco, quello è funzionante. E noi stiamo parlando di alimentatori professionali e lì non ci piove, in quanto l'alternata nel sottofondo, se di me un microfono amplificato, spinto, come questo che c'ho io. Qua succede che senti alternata con la batteria, e l'alimentatore separato, queste cose spariscono. Ma poco fa non ho messo in dubbio la stessa della batteria come elemento generatore, assolutamente. Io te l'ho spiegato, Finangelo, non credo di aver fatto nessun errore. Stavo parlando proprio del problema degli innesti, sono i ritorni di radiofrequenza che si verificano all'interno del regolatore di tensione, il quale va a raddrizzare la radiofrequenza e poi salta quello che il regolatore di tensione, che a sua volta non stabilizza più correttamente. E lì succede un pasticcio. Perché succede il pasticcio? Però la batteria di per sé è la migliore in assoluto, ma la migliore in assoluto per alimentare qualsiasi cosa non ce n'è, come la batteria non esiste. Però Giulia ha ragione, nel senso che tu non ti puoi prendere una batteria di 200 ampere e metterla dentro la stazione, non è conveniente, ci sono le esalazioni, a meno che non sia una batteria chiusa a gel, però possono pulire di Dio, ci sono i pro e i contro. E basta, ma qui si parlava di stazione radio e di convenienza d'alimentatore, cioè praticamente con quell'alimentatore tu ci vai avanti una vita, con una batteria carichi, scarichi, parte l'elemento. Ecco, lui Giulio, se ho capito bene, sta dicendo questo. Lo facciamo riprendere e vediamo se ho azzeccato. Avanti Giulio. Attimo che sono al telefono. Sai, non c'è problema. Avanti, chi altro c'è? Lucano, mi pare. Mi prendo io, ok. Aspetta, c'è qualcun altro in zona qua. Chi è? Gli è venuto in mezzo. Avanti, no. E allora c'è l'accento qua, voi mi pare l'avete parlato in 50. E chi c'è? Avanti. Allora, non c'è un amico qui locale, ma non lo sentirai. Avanti l'amico colletto. Ehi, che bubra di combinelle, Bobo. Oh. Eia, frate, frate. Travaglia, Bobo, travaglia, che non devo pagare l'assicurazione, travaglia. Allora, vediamo un po'. Giulio? Non è diventato Finangelo? Allora, qua ti stavo dicendo, allora, mettiti, no, su quello c'è finalmente ragione, hai detto giusto la prima, non c'è altro che la batteria, assolutamente. Io oltretutto ho più affidabilità con la batteria anziché con l'alimentatore. L'alimentatore mi ha fatto degli scherzi, gli alimentatori mi hanno fatto degli scherzi. La batteria, guarda, scherzi non me l'ha mai fatto. Anche se mancata la corrente, la stazione mia è sempre andata, quindi mi ho fatto una grossa esperienza. In quanto, poc'anzi, forse non è afferrato danni. Io ho il PS della King, il PS 4 e 30. Qua succede che lui, sai benissimo che è un alimentatore professionale da 20 ampere, che ha due uscite separate, tutte due uscite separate, in cui puoi mettere, è stato studiato per mettere un 140, il mio personalmente è stato studiato per mettere un 140 e più un altro apparato VHF per non avere inizio di frequenza. Hanno fatto due uscite separate, in quanto nelle due uscite separate. Qua succede che gli hanno fatto qualche filtro, non so cosa, infatti l'uscita del 140 è da 20 ampere, invece l'uscita di un VHF è di solito 10 ampere, di solito. C'è scritto anche sul libro, e qua stiamo parlando di alimentatori professionali veramente. Io allora avevo pagato 600.000 lire solo l'alimentatore. Quindi un qualcosa la Kenwood ce la insegna. Con questo impianto che ho, un impianto fatto da me, io l'alimentatore Kenwood l'ho adoperato, ho fatto il sistema Kenwood, però nel sottotitolo profondo mi dava alternanza. E ho risolto tutto con le batterie. Quindi ho attaccato l'alimentatore solo e esclusivamente al baracchino. E il lineare invece l'ho attaccato alle batterie. Ecco, io ho risolto tutto il problema. E oltretutto ne ho risolto il problema. E adesso una buona alimentazione da 44 ampere per il lineare. Poi ho l'alimentazione separata, alimentazione elettrica per il baracchino, ed ecco che non ho avuto più problemi. In quanto ho provato il 140 per andare a batterie. Io al motore ho fatto un buco nel muro sulla caldaia di fronte. Ho fatto un buco e ho messo batterie e carica batterie. Sono a secco, non è che ce l'ho dentro casa. E l'impianto funziona a meraviglia. Scusa, scusa un attimo Gianni, vi devo lasciare, dai. C'è gente a casa, dunque non posso restare ancora. Casomai ci sentiamo più tardi. Ciao Gianni, grazie per il consiglio. Ciao Pinangelo, alle prossime. Ciao Luigi, devo scendere giù perché ci sono dei parenti. Dai, ci sentiamo, alle prossime. Riprendi già. Ciao, è un piacere ascoltarti. Ci ascoltiamo alle prossime, ben tutto. Pinangelo, riprendi, ti saluto. Poi ti rispondo. Ciao Giulio, ci sentiamo. La testa va tu. Allora, un attimino di capitoliamo se non si chiede Marcello. Fondamentalmente hai ragione tu. Hai ragione tu perché, allora, se io devo essere proprio sincero, non utilizzerei mai un alimentatore nella mia stazione. Personalmente il parere di tecnico turista non lo farei mai. Tanto è vero che questo è un metodo sconosciuto a moltissime persone, il mio alimentatore è un alimentatore che come configurazione è in batteria principale. Sono arrivato a quel compromesso per evitare mille problemi. È in configurazione a batteria virtuale. Questa è una cosa che uno, se non ci sia su, non la conosce, manco se va a pensarla. Questi elementi qui sono stati usati dalla Marang, devi essere uno anche un attimino entrato nel settore audio, altrimenti non sai cos'è. In pratica il mio alimentatore si comporta esattamente come una batteria, né più né meno. Ma il lavoro che è stato fatto dentro è critico. In pratica questa grossa batteria di condensatori mi permette di avere un accumulo allucinante di energia, però allo stesso tempo ho un sistema di stabilizzazione che non viene portato e l'ondulazione residua è quasi zero, praticamente è un millivolt, quindi inesistente. Questo darebbe ragione a Giulio, ma non è così la musica, perché un alimentatore normale non ha la batteria virtuale, nel senso che non è configurato così. Quindi, all'apice io l'alimentatore di pizzeria e di butterie nella mondezza, perché sono tutti mal costruiti. Giulio parlava di un alimentatore costruito specifico, ma non dobbiamo andare alla NASA per trovare un alimentatore fatto come si deve, perché solitamente l'alimentatore è trasformatore, circuito rettificatore, regolatore e circuiti dei finali stabilizzatori, cioè i finali che danno corrente stabilizzata, per modo di dire. Poi ci sono dietro i retro. Ci sono i retro che, ad esempio, se un finale per caso dovesse andare, dovesse bruciarsi, la corrente di collettore raggiunge l'uscita e quindi brucia irrimediabilmente l'apparato. Fondamentalmente, se devo essere sincero, che tu sia competente, che tu non sia competente, che tu sia ignorante, che sia una persona molto intelligente, devo darti ragione. Però non si può flettare all'ausilio di una batteria dentro una stazione perché è scomoda, solo perché è scomoda, ma non perché la batteria non sia una fonte eccezionale. Innanzitutto una batteria, anche se gli metti un caricabatterie con una tensione più alta, rimarrà sempre lì inchiodata, perché la batteria è il carico effettivo, e quindi rimarrai con una nominale di 12 volt. Qualsiasi radiofrequenza rientrante non sarà capace di disturbare il regolatore elettronico perché non presente. Ok? Quindi già hai un abbattimento diverso, l'impedenza interna del generatore è diversa, abbiamo 7000 vantaggi. L'unico svantaggio che abbiamo è che devi ricaricarla per pesi che ci sono le esalazioni in caso di batteria caricata con acido solforico. Ma ci sono oggi le batterie al gel di potentissime dimensioni, questo è stato dimenticato, bisogna dire le cose, no? Ci sono batterie al gel da 150 ampere ora, grandi come un 140 neanche, per chi non lo sapesse, che ricaricano con basse tensioni correnti e quindi che tu hai 150 ampere ora a disposizione. Fondamentalmente, quindi, conoscendo quello che io conosco oggi nel campo delle batterie, degli accumulatori, eccetera, io vi comprerei una di quelle batterie, la metterei a caricare, altro che alimentatore. Roger, al centro, figurati un po', ho capito benissimo il discorso che mi hai detto, in quanto conosco anche quegli alimentatori, manager e via dicendo, ma a parte quello io posso andare oltre, non so se conosci le batterie degli elicotteri, infatti io chiedevo ai miei colleghi quando mi si spassano, buscatemene una, quelle che hanno fatto tutte le matte, che sono un elemento, vanno alimenti direttamente, un elemento cosa, un qualcosa di un prezzo assurdo, assurdo. E sono tanti elementi che quando si spaccia un elemento non fanno altro che levare l'elemento e metterci quello. E tu figurati un po', per tirare del le turbine dell'elicottero. E guarda che ce ne vuole. E se tu la vedi, guarda, rimane grande così un 30 centimetri per 12 centimetri, 12-15 centimetri, no? Se la vedi ti metti a dire, immagina un po' che potenza c'hanno e il prezzo assurdo che c'hanno queste batterie. Però guarda, io sono sempre convinto, per avere una buona protezione del baracchino non c'è altro che la batteria. Poi carica batterie, io glielo stacco. In quanto al tempo ora, ma io non ho visto mai nessuno che muovi più di un'ora di continuo. Quindi ogni tanto uno, se si fa una modulata, la può fare, non so, 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, poi stacca e contemporaneamente si carica la batteria e rialimenta la batteria. Quindi guarda, a me ha dato più soddisfazione l'impianto batterie, ce l'ho tutte e due, tanto che c'era un pulsante, posso fare batterie o altrimenti alimentatore, basta un pulsante. E la soddisfazione mia è che mi trovo meglio con le batterie. È stato dimenticato una cosa molto importante, no? E questa è fondamentale nel discorso della batteria. Appunto, come ti ha detto Giulio, la comunità, no? Il Saeso, c'è poco da fare, infatti perché non vogliamo ancora un'associazione di un alimentatore, perché si ha tutti questi problemi, a questa comunità, eccetera. Però se uno, e questo volevo dire, se uno prende un caricabatteria adeguato, di quelli previsti, perché ci sono oggi in vendita specifici, no? Se lo metti lì, la batteria rappresenta un grande condensatore, questa è la teoria, un grande condensatore, va bene? Ora, questo condensatore appunto è un accumulatore a sua volta, stabilizza totalmente la tensione, va bene? Quindi un buon alimentatore che abbia, ci sono oggi piccolini switching che erano anche 15 ampere 20 di picco, piccoli, appena guarda, due pacchi di sigarette, grande quanto due pacchi di sigarette, bene? Tu gli metti una cosa del genere, attacchi, e io posso dimostrare che ho più potenza nello spazio più contenuto, perché 150 ampere ora, ma quando cazzo mai mi ridà un alimentatore grande come una scatola di scarpe? Non me li darà mai con le batterie al gel che esistono oggi, non me li darà mai con tutto il riscaldamento che si genererà, con tutta l'alternata che sparerà sulla linea di alimentazione, con tutti i rischi che ci possono essere saltando il regolatore. Qui un cappello, però purtroppo il resto della medaglia, come diceva Giulio, l'alimentatore attaccato così da solo risolve una varia di problemi, come un alimentatore switching che oggi esistono, Franco fatto il discorso che non salti e ti incendia tutto. Ecco, Franco ha fatto questo. Oggi purtroppo sia nelle batterie che negli alimentatori sono stati raggiunti degli altissimi livelli di, diciamo così, di prestazioni, e quindi uno opta per l'alimentatore ovviamente, però anche consapevole che se salta il regolatore non ci sono le santi le madonne, l'apparecchio disintegrato. Ci sono alimentatori protetti che hanno una sorta di break control, no? Che in pratica si tratta di un diodo che cortocircuita un sistema, cortocircuita la tensione, quando la tensione supera i 13,8-14 proprio cortocircuita l'ingresso e scatta il breaker di blocco. Ci sono anche quegli alimentatori, però siccome gli impulsi di tensione possono essere velocissimi, se passa tensione superiore a 15 volt, ad esempio 20, già l'apparato corre il rischio di bruciarsi. E comunque la soluzione migliore per la pulizia, per gli spunti di corrente, per il non riscaldamento, per la sicurezza è la batteria. Il resto l'abbiamo già specificato, ogni cosa è suo pro e contro, come tutte le cose, quindi, e via. Aspetta un attimo che, non so subito come mi chiamate, c'è un settore in frequenza dalla mia città, vediamo il settore, prova a rispondere dall'antenna se ti senti finale, non sono subito. Settore, se mi hai chiamato negativo, guarda, non c'è senso. Sono convinto, no? Aspetta, stavo parlando. sulle apparecchiature, invece non è vero. Purtroppo, devo dirvi, in moltissime di quelle postazioni ci sono delle grosse batterie a secco collegate perennemente, no? Praticamente dei gruppi di continuità, ma sono collegati permanenti sulle batterie, un continuo carica-scarica, lì la corrente non può mancare, ma neanche per un minimo intervento. Quindi non sono più dei gruppi di continuità, ma sono dei veri e propri alimentatori a batteria, non proprio con la batteria all'asse, che forniscono corrente a questa stazione. Come mai gli americani non sono fissi, come mai hanno queste batterie a secoli? E sono fatte a blocchi, a elementi, tipo, che ne so, ogni elemento è 16 ampere ora, ecco, e ce ne sono 100 in ogni postazione. Ecco, questa diventa una batteria però. Come mai si usano questo sistema? Se potevano comprarsi un alimentatore da 500 o da 700 ampere per la sinistra? La domanda è questa. Quando noi sono imbecilli anche quelli, la domanda è questa. Io lo dico a questa cosa. Aspetta, posso? Tu? Aspetta, che c'è già, vuoi entrare, già. Proprio rum. Dai, già, stavo, facciamo break. Io lo sento, Gianni. Gianni, sei un importante. Già rientra adesso. Allora, hai compreso, Finangelo? Che sostanzialmente ci sono dei grossi alimentatori che addirittura hanno delle batterie collegate così e alimentano perennemente questo apparato. Esiste anche questo sistema. Però molti non l'accettano, perché la cosa più semplice sarebbe l'alimentatore, come fanno tutti, così fanno tutti. Fa l'apparato, naturalmente. Tutti i problemi che li tieni, punto. Ecco, Giulio parlava sotto l'aspetto traffico, mangevolezza, che poi una batteria da 150 per ora oggi gira che si gira pesa quanto un alimentatore da 30 ampere normale, ecco, più o meno, ci sono quelle batterie a secco che sono micidiali, ma micidiali veramente, piccolino e piccolino. Di questo non se ne è parlato perché non se ne conosce magari l'identità di certe batterie. Ma è sempre quella, tu, uno, quando vai in un negozio, per fare una spettazione grande, questo deve capire il video, non chiede una batteria, ti chiede un alimentatore, pessimo, buono, quello che è la radio, poi lo mette lì, boh, questo è di convenienza, è quello. Naturalmente, si va a fantasticare nei discorsi dicendo, ma io mi compro, oh, se c'è un alimentatore di guasto, sì, perfetto, 400 ampere, 2500 euro, adeguato. Senta, è quello che volevo dirti, però due batterie da poco, da 100, 165 ampere, mi sa che te ne esci con 200, 250 euro, e qua ci abbiamo, col caricabatterie fai 300 euro e qua ci abbiamo una funzione, un amperaggio abbastanza buono. Ma stavo dicendo, gli americani hanno imparato da noi italiani. Non so se c'è mai stato, io sono stato 30 anni fa al faro di Capocaccia e lì mi sono fatto un'immagine, no? di come hanno la corrente loro. Hanno, non so, 10, 15 o 20 batterie, a quanto ricordo io, grossissime, per mandare avanti il faro, hanno la corrente per ricaricarle, no? E poi addirittura c'era Ambra 1, Antonello Martinez, un amico mio, che modulava da Capocassi, un qualcosa di eccezionale, no? Con un antenino però parava da tutte le parti. Qua succede? Sì, certo, vedi, il problema è la batteria, logicamente uno se oggi ci sono le batterie senza manutenzione, non acqua distillata, poi ci sono le batterie, ricaricabili, tipo quelle degli elicotteri, che sono cose, quelli con dei gioielli proibiti per noi, perché costano una cifra enorme. Ah, posso raccontare una cosa. Fino a 10 anni fa noi avevamo le radio VHS, VHS del Ministero del Vigile del Fuoco, e le avevamo un caricabatterie con la batteria, mai con l'alimentatore. Dopo sono arrivati gli alimentatori, però io ho sempre conosciuto un caricabatterie bello grosso con una batteria, mi sa che fosse un 50-60 ampere, e quello lì è sempre made in Italy. Infatti non sono riuscito a buscarmene uno perché li hanno buttati via e li hanno cambiati e non potevano darle a me che lavoravo sul posto. Una volta il ferro vecchio e il ferro vecchio li ha distrutti. In effetti no, gli americani non ci imparano niente, siamo noi che abbiamo imparato gli americani. La tecnologia è quella, no? Made in Italy. L'alimentazione, uno dice sì, è un alimentatore adeguato, cazzo, ma ecco, 5 milioni di vecchie lire, mi sembra che non sia adeguato il testo con un baracchino. No, aspetta un attimino, gli americani oggi sono 30 anni più avanti di noi. Made in Italy, cosa insegna? Made in Italy, l'italiano è un broglione, l'italiano è un bravissimo progettista, è un cranio per embrione. Fondamentalmente ti prendi a partire dall'automobile, prendi la Fiat di un cesso, è praticamente un bidone che ti dia aspetti, non me ne parlare, no? Cioè non parliamo neanche perché non ne voglio neanche sentire. Gli americani sono delle grandi persone, ma si eclatano, si eclatano pure, quando fanno qualcosa la fanno più grande di quello che è, e questo è vero, però hanno fatto anche grandi cose, bisogna riconoscerlo, non c'è ombra di dubbio. Ma qui però, fino a, si parlava di un aspetto pratico. Io l'ho capito, Giulio, l'ho capito subito, quando lui ha accennato, diceva che io mi ha dato proprio male, mi ha dato la stazione, non risolvo tutti i problemi. Ma anche con l'interruttore non deve caricare, non deve fare niente. Finché un bel giorno non salta, oppure finché questo alimentatore scalda come un matto e si fonde i binari, oppure non riesce più a alimentare perché sta in protezione perché è troppo caldo, insomma, mille problemi. Poi ci mette il mezzo, dice c'è lo switch, però ci sono i denti, ci sono vari problemi. Ok, d'accordo, tutto quello che vuoi, però le persone si puntano sempre per una versatilità, per una facilità d'uso. D'accordo? Fondamentalmente, questa è la cosa base, cioè il commercio è quello che anima lo spostamento di queste apparecchiature. Se tu dovessi animare lo spostamento di quelle batterie, nessuno ne comprerebbe. Ecco cosa volevo dire. Quindi, anche se il concetto teorico, diciamo così, supera, teorico e anche effettivo, supera quello che è il concetto commerciale. Il concetto commerciale però è quello che manda avanti il prodotto, e cioè quello più venduto tra, che ne so, il mercato è offerente, no? In questi due, tra l'offerente e comprare, si instaura un rapporto. Questo manda avanti il mercato. Se tu io una batteria, quello non te ne compro. Fondamentalmente Giulio diceva questo, diceva che non c'è il mercato, perché non esiste il lato pratico, cioè quello di facilismo, che si incendi l'apparecchio, che si bruci la casa, quello mette l'alimentatore, perché ha conosciuto quello, è un po' come andare da un maomettano e farlo credere in Dio. Roger, cioè io l'ho ben capito a Giulio, no? Solo che c'è un piccolo particolare che forse lui non ha capito. Io so sia l'alimentatore professionale con due alimentazioni dell'alimentatore separate, quindi c'è un qualcosa anche di professionale di alimentazione. Contemporaneamente schiacciando un pulsante da sorrenti. E quello che volevo dire io mi sono trovato molto molto meglio con le batterie che con il professionale dell'alimentatore PS430. Allora, tu avevi un inconveniente e l'hai ovviato con le batterie. Quindi non è che ti manca l'alimentatore, ma non solo, ne hai uno sovradimensionato e, diciamo così, che ragiona in termini propulsionali. Quindi non si può dire che non si è permesso di un alimentatore, appunto. Però il concetto non era quello che tu hai fatto che va bene, era la facilità d'uso, di utilizzo. Se va bene o male non ha importanza, ma naturalmente un'opinione non è un fatto, è un'opinione. Perché io comunque so che ci sono stazioni radiomatoriali che montano le batterie, ci sono quelli che ce le hanno. E naturalmente, se uno vuole, la costanza o si fa un alimentatore che emula la batteria virtuale come ho fatto io, a modo che se succede qualcosa praticamente malandando non dovrebbero passare certe funzioni, perché appunto ho questo grosso blocco di condensatori che tiene la tensione appunto sotto un certo livello, perché si comporta appunto come una batteria all'uscita, ma è un gioco elettronico. A questo punto sono ritornato praticamente il gioco del cane che si morde la coda, quindi io ho ricreato una batteria però sotto l'aspetto alimentatore. Questo sarebbe l'ideale, una via di mezzo. Però per trovare un alimentatore con quelle caratteristiche, quanto si deve spendere? E tu vuoi dire appunto che con meno spesa hai comunque una corrente superiore e di gran lunga più pulita. Basta, era questo. Questione di tempo. Allora, grazie, infatti è questo che volevo dire. Qua io l'ho sperimentato già una ventina d'anni e prima sapevo nell'impianto, lì pure il tempo l'ho fatto andare sempre con la linea sua perfetta, la linea. Però quando ho operato questo baracchino, ho imparato un 250 watt con il palco, non mi ricordo il nome, il lineare, no? Un palco. Avevo due batterie da 12 volt, 330 ampere. L'esperienza me la sono fatta lì, però ce l'avevo non dentro casa, ma bensì in Calvagna, perché dal muro di cui sto parlando adesso, alla Calvagna ci sono 20 centimetri, 50 centimetri di distanza, ho fatto un buco e quindi le batterie ce l'avevo all'esterno. Però all'interno c'è gli alimentatori, cioè con un pulsante io posso fare batteria, rimuovo il pulsante, posso fare alimentatore, cioè tutte e due le comunità. Infatti senza molta spesa, adesso ricordo che ti dica, io sto andando con un baracchino che oggigiorno, non so, costerà un 50-60 euro. Un'antenna qualche cosa va bene, la mancola, c'è un'ottima alimentazione, no? Anche andando a batterie, una batteria costa qualche cosa, ecco, ho tanti problemi, senza andare qui a comprare un processore, poi a parte tutto va via la corrente. E a sassa gli rimane la corrente, la ruota di alcheno, non c'è corrente, non modula, e invece io modulo lo stesso perché ho la quadra battuta, c'è un 12-13,8 volt, e continuo a parlare, invece l'alimentatore è quello lì. Sono difetti, gli sconvenienti dell'alimentatore. Infatti, questo dicevo, perché le grosse banche hanno quel sistema ovviamente con le batterie? Perché non parlano neanche un centesimo di perdita, diciamo così, di tensione. E quindi quello è l'ottimale, ma è una base, non è un radiamatore, è tutto diverso. Cioè, quello che voleva dire Giulio era improntato sul fatto della versatilità. Ecco, io ho un alimentatore da 50 ampere che mi va bene nella mia stazione, non faccio altro che mettere il cerino di interruttore e funziona. Ho loro si dimenticano sempre le cose fondamentali: disponibilità di frequenza, regolazioni usare, sbalzi di tensione, le porcherie sui suoi giù si manifestano in senso che tutti gli vanno normale. Prendi un apparato VHF, collegaglielo sopra, è più importante che vedi cosa ti fa. Ma lo so benissimo, capisci, non sono benissimo, mi frequento e via, è per quello, con l'esperienza che in tanti anni mi compartono, logicamente piano piano sono riuscito a eliminarle, all'infuori di questo mixer ho aggiunto la foto che sto cercando di aggiustarlo per i gimnisti, però questo impianto mixto con un microfono autocostruito, perlomeno con la microfonia autocostruita, mi sono accorto che ci vogliono due alimentazioni diverse, diversamente guarda il mezzo, però l'alimentazione qual è? Quella batteria mi va benissimo. Se io attacco direttamente tutto all'alimentatore professionale della Kenwood, sento o i mischi, o alternanza, o cose varie. Invece ho separato le alimentazioni con un lineare inserito, senza lineare non succede niente. Con lineare inserito ho avuto sempre dei problemi. È una potenza superiore, gli anelli di massa non sono ben correlati, quindi ho ovviato l'inconveniente praticamente spezzando gli anelli così con un'alimentazione separata. Anch'io faccio il video delle alimentazioni separate quando faccio gli apparati DS per avere il massimo di silenzio. Mi sa una cosa stupida quella, è una cosa veramente intelligente, capisci? Poi quando voglio lavoro con i punti di massa ed è uguale, riesco comunque ad avere gli ottimi risultati. Però Angelo, non ti posso dare torto, perché fondamentalmente anche tu stai sperimentando quello che negli anni l'hai maturato come esperienza, cosa non trascurabile, perché il discorso che ci fanno le persone è: vado con l'alimentatore, te lo metto, ma su quale frequenza? Punto di domanda. Sei sicuro che quell'alimentatore un giorno o l'altro non ti rientri e ti faccia danno? Punto di domanda. È vero che l'alimentatore sta uscendo pulito in tensione, è vero che non ci rinfonda, queste cose vanno lasciate agli ingegneri, ai tecnici e ai professionisti, non a uno che effettivamente in radio pulla la luna, compreso tu in angelo, che ululate alla luna, batteria, alimentatore, batteria, e ululare alla luna, ci vuole. Allora le fondamenta sono quelle che rispondono a dei dati requisiti. Allora, il dato requisito cos'è? Ad esempio, mi serve una caricatoria, un caricatore continuamente, perennemente collegato, che mi dia sicurezza, che non passa neanche un apparato. Questo è il sistema, per non farti di niente. Mi serve un alimentatore da 400 euro per alimentare un Kenwood o uno Yaesu, quello che sia, ma non lo so come funziona. Allora va bene anche il traffico interruttore, accendi e va. Ma non risolve nessun problema, risolve solo il problema dell'interruttore che si alza e che alimenta l'apparato, basta. Poi, ed è comodo, così è comodissimo, ma problemi in senso di ritorno delle frequenze, di pulizia, quello non risolve manco uno, anzi ce li hai tutti da risolvere. Molte volte sei fortunato che schiacci la portante e non succede niente, neanche collegando la macca a terra, con impianti chiusi di macca a terra, perché l'antenna è a 40 km di distanza e sei tranquillo, poi non si ritorno. Il giorno che poi metti, un lineare all'interno che ha una leggera perdita, inizia tutto a dire si brucia pure l'apparato perché regola l'alimentatore e fa danno. Ecco, quindi non risolve niente, l'alimentatore all'apice così non risolve nulla. Personalmente ho avuto l'esperienza di questo alimentatore che ho dovuto modificare e ho dovuto progettare con BrickMaker e con CircuitMaker, ho dovuto progettare ex novo tutto il sistema con batteria virtuale proprio perché non ne potevo più. Con un filtrino all'ingresso, il quale l'ho consegnato a un altro amico in frequenza, altrimenti non c'erano né campi né madonne. Guarda, senti Roberto quando entra la sera qua. È sempre con il problema dell'innesco. Ora appunto, quando metterà questo filtrino andrà a vedere che cosa succede. Però, ti rendi conto che i problemi sono molti? Non è usare un barattino da 4 cicli collegato all'alimentatore? Ale, tutto fatto. No, non si vede lì il cavallo, no. Il cavallo si vede quando ci sono gli altri cavalli che corrono, come dico io. Perché prendere un ricevitore da più basso e in così ti sentono, è facile attaccare un alimentatore, non c'è più bisogno di niente, non hai spinta. Però, secondo un vicepremistore professionale, pagato solo di quattrini, sarebbe salvare 200, 250, 300 watt, compreso un finale esterno e tutto, allora ci prendi 15.000 volte prima di mettere un alimentatore che non costi minimo di 2.000 euro. Se lo metti, perché se lo metti da 1.000 euro, comunque il problema sussiste. Tu mi hai detto, poco fa, che l'hai pagato 600.000 lire, corrispondente a non meno di 1.000 euro di oggi. Rogere, sì, infatti, allora costavano così. L'impianto completo costava, se non vado errato, se ricordo bene, no, la linea 140 senza cordatore, senza, in due parole costava 2 milioni e mezzo, se ricordo bene. Adesso è passato, sono passati 20 anni, vabbè, comunque l'MC60 l'alimentatore e il 140 costava 2 milioni e mezzo. Poi hanno fatto delle offerte però senza l'alimentatore originale. Via dicevo, quindi se una persona mi dice, veramente, allora io le posso consigliare qui all'850 che c'ha tutto incorporato, o il 9 della fine, 9,950, che c'ha tutto incorporato, alimentatore, c'ha tutto, così grosso modo risolve i problemi, perché è stato fatto da una casa anche buona, la chiesa di Merisapa, l'originale, e via dicendo, senza provvedimento al medinita, logicamente, perché il sito serve il medinita lì, e non c'è dalle altre parti del mondo, non esiste, a quanto sia, non esiste prodotto migliore del medinita lì, però il medinita lì, tipo Matogari e via dicendo. Vabbè, comunque, come si tira un qualcosa di completo. Meglio che i rigidi, con un 140, un 440, una linea completa, o altrimenti queste piccolette che abbiamo noi, baracchini normali, no, da 40 canali, un microfono, un sottofinito, un alimentatore da 10 ampere, no, o altrimenti una batteria, carica batterie, no? Un piccolo lineario da 50 a 120. Questo è perfetto, basta. E poi voleva mandare al di sopra, tempo indietro, mi ricordo, oltre 15-18 anni fa, c'era una persona che aveva preso un impianto, l'avevo sentito di 4,5 e che costava 20 milioni di qualcosa da cartuccio all'ora. E guardo un po', questi mi prendono, almeno da parte mia mi sono fatto, mi sono fatto due impianti della limitazione. Ho tutto finito, questo tipo di impianto che c'è. Il 400 per ora, 900 di picco, vanno bene il picco, sapete che vanno bene. Hanno il pro e hanno il contro, abbiamo parlato poco fa. Numero 2 adesso, alto gli dà la 2, e abitare, va a baitare vicino a fuori le scuole. Se abbuta, in atti, saluto quello che sembra che fa un po' niente, abbiamo delle disposizioni da fare. Magari ci sentiamo più tardi, sì. Mi ha fatto piacere ascoltare e non ti incazzare fino a... Fino a che sono solo opinioni, stai tranquillo. Che tu comunque... batterie superiore a un impianto. Sappiate una cosa, che sono la peggior bombetta che mai è stata creata sul mercato, la risposta di chi quale sia che buttano fuori dall'oscillatore principale che poi viene filtrata con una semplice induttanza calcolata per quella corrente e quella frequenza. Normalmente sarà cattivo, ma mondezza tutta, tutta mondezza, capito Pina? Tutta mondezza, lo puoi comprare anche a 2000 euro, il principio di funzionamento è sempre lo stesso. Quindi, di conseguenza, soprattutto con un discorso, quando si rovina un switch, bisogna mettere le mani nei capelli. Insomma, sono una barca di anni che li vedo con tutti i dettagli medicali, per non parlare di tutto il resto, perché sarebbe da fare un elenco lungo, da qui a Marte. Ma ti garantisco una cosa, all'infuori del trasformatore tradizionale, nell'alimentatore tradizionale, non uscirete. Poi, da purista, nutri le batterie. Provano sia che Maran, in uno dei suoi migliori amplificatori, non per... la pubblicità era rappresentata così, c'era uno scacciamosche che gli schiacciava la mosca, quindi si chiamava la Maccaron in quel finale. Perché la Maran è così imbecille e non poteva collegare un alimentatore a quel finale? Io questa domanda gliela vorrei fare a Giulio, per vedere cosa risponde. Ma sarà per la prossima puntata. Ciao, ci sentiamo in Angelo. Ricordate una cosa, io ammiro, no? E apprezzo le persone che insistono su una teoria sul quale sono sicuri che trovo pratiche. Li ammiro e li apprezzo. Perché quando la verità è innegabile, non si può dire di no. Hai una prova evidente, lascia cantare alla luna come ti dico io. E poi ricordate una cosa, queste cose se le dici uno per una stazione da, che ne so, 700 watt, 1000 va bene, ma se invece uno che trasmette con una radiolina ancora delle patatine, lascia un po' desiderare. Ci sentiamo, ciao Pina. Ciao, già ci sentiamo le punte. Magari già ne riparliamo. Dolcissimo accento, salutami a un amico tuo che non ha ascoltato, in quanto non arriva a fare vedere. Vabbè, ho già, ci sentiamo le prossime, ciao. A risentirci anch'io, rimango un po' in ascolto, poi accendo il televisore, sono filmato per un po'. Ciao, a risentirci. Ciao, ma ti chiama? Sei buono munito da mettere le unghie dai 9 e di rinvato. Ciao Pina, buon proseguimento. Te l'ho detto, tutti io faccio sempre 4, girale come vuoi. Avanti il volontario. Aspetta se mi parli di volontario, avanti. Chi ci vuole entrare? Avanti il volontario. Poi, mi è sembrato che c'è qualcuno che ha fatto il brezzo, ma non si è sentito bene. Avanti, prego. Ciao. Nel testo non vedrei da una, un bell'accidente. Questo, già non ti viene giù, non te. Ciao ancora fino a... Ciao, è entrato in giù, non l'ha sentito, non te. Mi fa che vediamo... Ma te? Ma te, non ti rimane capogiro? Sì. Lui, tu sì. Ehi, capogiro non ti rimane a te. Come tu? Capogiro non ti rimane. Ma te, non fai il capogiro? Ehi, capogiro non ti rimane. Posso visitare qualche volta, perché? No, vogliamo andare a capogiro. Vieni capogiro? Non lo so, per quale motivo. Capogiro. No, non ho capito bene. Capogiro in che senso? Tu. Via, ciò qua, capogiro, la cervicale, ogni tanto, scossa la testa, vai. Scossa la testa, la cervicale è maledetta, la cervicale si fa vomitare pure, secondo come si punta. Perché... cosa fanno? Comprime le vene, a me me lo fa, quando fa compressione mi scalpella il cervello, capisco? Già sono fatto, capisco? Poi ci sono messo pure la cervicale all'inizio, dato su intinto, capito? Io non sarei in condizione di farmi il cervello. Ma è scosso, ma qua, allucinante, io tanti anni fa, quando ero più ragazzino, 20 anni, 19 anni, ero più giovane. Ci uscivo a lavorare, e venivo anche da farmi la luce, ci uscivo la testa bagnata, in moto, mi quando ero giovane si stavano avanzando con le spalle. Io ho aggiunto una gamba che adesso mi fa male, mi stavo massaggiando poco fa. C'è il nervo che sarà a rubia, saranno a tutti sicuramente. Il nervo che si inizia adesso ne sarò forse polvere da fare, un buco, era un fino. Quella così lei Tomasa me lo prego e aspetto che mi fa un bel massaggio, una bella fregata. Sono cose che si pagano a una certa età, si pare così, no? Ma influenza il fatto che una persona ragazza abbia già avuto questi problemi così di moto, biciclette, sta di tutto quello che si può fare, non spontaneamente Luca, capito? Vabbè, dunque sì, ci siamo fissati, forse c'era l'amico nostro sotto, ma non è entrato. Questa volta ci è limitato allo carnato. Ci sentiamo dopo lui. Ah, ma io qua, ciao, anche sto uscendo, dai. Chi l'ha riconosco? Porto Maro, ogni tanto che la carnata già. Ne abbiamo parlato qualche volta. Ma sì, lui è no. Usiamo l'acqua, vediamo un po', vai. E sempre lui, già è lui, lo stesso segnale, capito Luca? Sempre quella stessa persona, ignorante al massimo, piccolino, alcolizzato. Poveraccio. Vabbè, purtroppo ha preso un brutto colpo. Già lo sappiamo tutti io. Cosa che l'abbiamo capito chi sei, l'hanno capito tutti chi sei, d'accordo? E sappiamo che non sei dentro Sassari, lo sanno tutti quanti dove sei. Quindi guarda te, però da parte tua, sì, guarda, ti dico che sei solo un grande vigliacco. Non ti dico altro, ti lascio la sua tra parentesi. Non ti magari, ti rilasciala. Fermiami, come se ne c'era dalla barra. Capito lui adesso, già lui, no? A stavolta la riflessa, ma comunque, va bene, dai. Ok, ciao qua, che devo fare una commissione, ci sentiamo dopo, dai, stasera magari, ciao qua. Ciao, ci sentiamo. No, ma già è quel guasto, capito? Già è lui, no? Già è lui, al 100%. No, non si può. Ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao.